Buonasera e benvenuti alla puntata 21 di Geek Cookies. Dopo un lunghissimo periodo di assenza da parte mia e un medio periodo di assenza da parte di tutti per una serie di inconvenienti tecnici, distruzioni di fine del mondo, eccetera, siamo tornati. Io sono Mario, come al solito vi farò questa sera da host e vi introdurrò i nostri ospiti della serata. C'è il buon Francesco con noi, ciao. Ciao e bentornati a tutti, scusateci ancora per il ritardo. Questa è un chuck numero esatto. 2 di questa puntata. E il buon Giuliano che è di nuovo tra di noi, buonasera. Ciao, buonasera. Bentrovati a tutti. Ma magari in Sardegna è giorno, io dico buonasera perché non so. Sì, il fuso orario è più o meno quello. Esatto. Ok, quindi stasera abbiamo un paio di argomenti interessanti da portare. L'argomento principe sarà un progetto fatto, scritto, editato e testato da Francesco, quindi lui ci introdurrà le cose principali. Il progetto praticamente si basa sull'automatizzazione di alcuni parametri, lettura di sensori eccetera, utilizzando alcuni servizi cloud per leggere, diciamo, sensoristica di casa, per comandare alcuni oggetti come luci o robe che possono essere integrate con servizi cloud. Francesco, ci puoi dare un background su quello che volevi fare, il problema che volevi risolvere e come alla fine sei riuscito a farlo in maniera, diciamo, decente per te, funzionante? Senza alcun dubbio. Se avete dubbi fermatemi, se no io comincio a parlare a macchinetta e poi annoio tutti. Allora, non so se vi ricordate la primissima puntata che abbiamo fatto di G-Cookies, anzi no, la numero 1, yes. Sì, non sì. La numero 0, abbiamo parlato del mio sistema di videosorveglianza che era comandato con Twitter. Poi Twitter ha cambiato le API, poi io sono diventato matto e quindi mi sono rotto leggermente le scatole e quindi ho convertito lo stesso sistema di videosorveglianza su Telegram, che è molto più reattivo ed è già sopravvissuto a un cambio di API, quindi sono abbastanza tranquillo che la questione funzioni. Sempre sviluppato su Python, mi sono trovato una libreria molto facile che parla con Telegram. Mi sono fatto il mio bot. Mi senti? Ci avevo già una domanda, intanto che parlavi, visto che ti sei fermato. Ma dica, mi sai dire perché, cioè, ultimamente tutti questi progetti che sto vedendo sono tutti basati su Telegram? Cioè, prima era quasi sempre Twitter o altre cose, però ormai Telegram ha preso proprio il sopravvento in questo campo dell'interazione con macchine, diciamo. Ha preso il sopravvento perché Telegram è stato il primo a rendere, diciamo, reali i bot. Mm. Nel senso, prima la parte di bot di Twitter non era ammessa dalle condizioni di Twitter, cioè se si accorgevano che eri bot eri a rischio di essere buttato fuori. Telegram è il primo che ha detto: però perché non fare un sistema che la gente si registri il suo bot e lo programmi un po' come vuole. Infatti c'è una piattaforma su Telegram, ora non so se è proprio il primo, ma penso sia il primo che è venuto fuori alla ribalta così tanto. Dopo IRC, diciamo. Sì, una roba del genere, ma magari c'erano anche delle altre piattaforme di instant messaging che permettevano di fare bot. E ha messo su tutta una piattaforma con il papà dei bot, che è quello che genera i bot e ti dà le chiavi per lavorare con le API, e che si chiama The Bot Father, ed è bellissimo perché l'avatar è la stessa immagine del film il Padrino, ma fatto a mo' di robot. Tu parli con questo bot, gli dici: senti, voglio fare un nuovo bot. Lui ti chiede quale nome vuoi dargli e deve finire con bot. Ok. E ti fornisce tutte le informazioni. Tu dici: guarda, l'avatar deve essere questo. Lui ti schianta l'avatar dentro e ha alcune caratteristiche molto comode per poter lavorare con la tastiera dei cellulari. Per esempio, i comandi sono preimpostati, cioè se io faccio slash, il bot mi risponde con: questi sono i miei comandi. E io basta che faccia un tap sul singolo comando e lui parte. Piuttosto che io posso impostare delle tastiere predefinite, quindi non la classica QWERTY. Per esempio, io ho un pulsantone che dice accendi videosorveglianza e un pulsantone che dice spegni videosorveglianza senza che io debba scrivere niente. Gli dico ciao e lui mi risponde con: cos'è che vuoi fare? E la tastiera si trasforma in accendi e spegni, quindi con un tap solo faccio tutto quello che ok, infatti avevo visto alcuni esempi tuoi, dicevo, però c'erano stati giorni a programmare dietro, quindi è già tutto integrato praticamente. No, è un comando, praticamente quando tu gli dici di mandare il messaggio, uno dei vari parametri è quale tastiera usi e la tastiera si scrive in una riga di codice, è veramente semplice. E se tu tappi sul pulsantino che dice accendi, lui non fa altro che passare come parametro del messaggio il testo accendi, e quindi hai tutto quello che ti serve per lavorare. Tra l'altro Telegram e open source garantiscono che la memoria dei bot viene cancellata, cioè quello che il bot ti manda come messaggi, come immagini, come alle allegati, tu puoi far mandare al bot qualunque tipo di messaggio, lo storage è piccolo e dopo qualche ora sparisce. Questa è una buona notizia. Di conseguenza loro non tengono molto. Ma tra l'altro Telegram ha anche introdotto quelle chat cifrate, chat con autodistruzione, una serie di robe prima di tutti gli altri, ovviamente. Sì, giusto, gli altri sì, poi sì, WhatsApp, li hanno seguiti a ruota e via. L'altro vantaggio enorme di Telegram rispetto a un sacco di altre chat è che lo usi da qualunque piattaforma, perché lui è nato già per lavorare su desktop, su mobile, su web. Guarda, già il solo fatto che l'interfaccia web indipendente dal terminale io li preferisco tantissimo, perché WhatsApp su questo lato è una tortura per me. Ma WhatsApp ha questo grosso limite che accentra tutto sulla SIM. Quindi quando tu vai sul sito web di WhatsApp o ti scarichi la nuovissima app di WhatsApp, se il tuo telefono non ha WhatsApp attivo, non funziona. Infatti, no, attivo è collegato a internet in quel momento. Sì, che è una sì, roba giusto. Al giorno d'oggi è orribile, secondo me. Cioè, capisco se lo puoi usare dal terminale, ovviamente, però se io uso un altro terminale qualsiasi, perché devo avere quell'altro acceso e collegato? Non ha senso. Vabbè, comunque, roba bello. Invece Telegram funziona molto bene da questo punto di vista. Tu ti registri, lui come user scusate, ha comunque il numero di telefono, ma non è necessario che tu lo attivi su un dispositivo che abbia quella SIM dentro. Esatto, ottimo. E quindi io, per esempio, posso fargli le interrogazioni sul sistema di casa mia da qualunque PC, dal cellulare, da qualunque parte dove ho il mio account Telegram attivo. Ottimo, quindi sembra una cosa molto flessibile. Fondamentalmente è quello che tu usi come interfaccia col tuo sistema di automazione. Okay. Sì, io ho un comando che gli dico ciao e lui mi dice cos'è che vuoi fare. Io ho una tastierina preimpostata e ora ho lo stato della videosorveglianza, quindi accendi, spegni, è accesa o è spenta, e poi se è spenta posso fargli fare una foto in estemporanea che lui mi manda. E poi ho la parte del controllo del mio file server Linux e ho la parte che sto sviluppando ora di temperature, consumo corrente, eccetera. È una roba che casomai mi è passato. Dove gira questa roba tutto? Cioè il Raspberry che è lì, che fa solo questo, però è anche adibito ad altre robe. Quel Raspberry fa da videosorveglianza e da bot Telegram, ma non patisce, nel senso che è molto reattivo. Tra l'altro la libreria Telepot, ovviamente anche lei open source, è di una banalità pazzesca, e con pochissime righe lui lascia attivo una specie di servizio che ti risponde in tempo praticamente reale. Cioè lui interroga di continuo i server Telegram. Quando arriva il messaggio, il server Telegram gli risponde, c'è questo messaggio, e da quando io gli mando il messaggio a quando lui mi risponde passano forse 2 secondi e mezzo. Ok, quindi davvero? Pensavo che per Raspberry fosse una cosa un pelo più meno reattiva. No, è velocissimo, anzi io ho attivato anche altri 2-3 specie di demoni, che poi non sono demoni ma sono dei programmi che partono con il Chromecast in contemporanea. E per esempio quando c'è la videosorveglianza attiva, che lui consuma abbondantemente il 70% di CPU, perché tra l'altro è il Raspberry 2, il primo, non è neanche il B, comunque il bot risponde in maniera molto molto rapida. La parte lenta, che è, mi crea un po' di difficoltà è la connessione ai server Telegram. Ci mette 6-7 secondi a fare la connessione, quindi il sistema che mi manda le foto, che è fatto così, fa una connessione per ogni foto, e quindi l'invio delle foto è lento, ma sto sviluppando una specie di piccolo demone che controlla se compaiono delle foto che lui salva, me le manda e le cancella dal disco, così lui è sempre connesso e ma infatti via. Questo vabbè, vai avanti, poi ho anche altre domande che mi sono venute in mente. Sì. Un'altra cosa che secondo me è fondamentale, e che era così anche con Twitter, io non ho aperto nessuna porta sulla rete di casa in ingresso, nel senso che il Raspberry fa le chiamate verso fuori e non devo accedere io tramite il mio IP pubblico da nessuna porta. Questo mi porta a non avere un sito web con tutti i miei parametri, ma mi porta a non aprire nessuna porta, quindi ho la rete tutto sommato molto più sicura e meno attaccabile. Giusto, ma io uno dei più grossi, io sto pensando a fare anche alcuni progetti tipo quelli con comandi vocali per comandare sensoristica o per comandare interruttore, robe così, però la cosa che ho sempre un cruccio è proprio il fatto di utilizzare servizi esterni, come dicevi tu, tipo Telegram potrebbe, tipo Twitter ti ha dato problemi con le API perché loro le cambiano quando vogliono, Telegram c'ha problemi di latenza con i file eccetera, so che esistono, cioè alla fine è, tu c'hai molta comodità perché tutto gira su server di altre persone e loro si occupano di tutto, cioè al più si schianta un Raspberry, lo cambi e via, tutti i server che fanno la roba di scriverti la roba con Telegram sono di Telegram, però alla fine hai meno flessibilità, cioè se tipo, cioè, pensa a una cosa che ho letto anche un po' in giro. Se tu fai una cosa del genere mentre sei in casa, tu devi mandare il tuo messaggio a un server in Oklahoma, probabilmente, che poi torna indietro mentre sei sul divano di fronte a Raspberry. E quella volta che c'è un problema da loro, effettivamente sei tagliato fuori. Sì, però c'è il grosso vantaggio che hai. Non hai questa cosa che devi aprirti un servizio tuo da qualche parte. Cioè, io potrei fare. Mi apro un server web in un data center, faccio che il mio Raspberry acceda al server web e io scriva sul server web, ma mi devo programmare il server, gestire la disponibilità del server, far mio il sistema di comunicazione con il server, quindi o mi faccio la mia paginetta della quale mi devo studiare tutta la sicurezza, ovviamente. E soprattutto devo fare qualche cosa che dal telefono sia facilmente raggiungibile, cioè io non ho voglia di perdere 4 minuti tutte le volte che torno a casa perché la procedura per spegnere l'antifurto è troppo lenta. E questa cosa di appoggiarsi ad altri, sì, e io mando dei messaggini di testo a chissà chi e sono dipendente da Telegram, cioè se io sono fuori e devo spegnere l'antifurto e Telegram cade, è già successo, l'antifurto non posso spegnerlo, ma anche banalmente se ti cade la connessione internet, cioè proprio non ti arriva più internet, tu sei fuori. Sono fuori, ma sarebbe la stessa cosa anche se cadesse la connessione e io ho tutto quanto senza passare da quello che io Telegram. Pensavo è anche il server web, te lo fai girare sul tuo Raspberry, cioè io quello che sto pensando per casa mia è di avere probabilmente o degli zero una serie di Raspberry, ognuno dedicato a un servizio, quindi uno si occuperebbe del riconoscimento vocale, uno si occupa di interagire con me e uno tipo al server web attivo solo, ma tutto interno, perché la maggior parte poi delle modifiche o configurazioni che fai le fai da casa, a più sei fuori della porta, quindi ovviamente prendi anche la wireless, quindi anche se non hai connessione al mondo esterno sei comunque collegato dentro, capisci cosa intendo? Sì, però è più complicato. Se per esempio è ovviamente più difficile ed è un po' meno versatile, sì. Perché per esempio c'è tua mamma che ti porta la spesa a casa, lei non ha lo smartphone, non puoi spegnere l'antifurto perché sei fuori portata del la parte Robocop del Wi-Fi probabilmente. Giusto, capita, sono danni collaterali della tecnologia. Okay. No, io ho fatto un tot di studi, di pensate, e la cosa, tra l'altro, mi è piaciuto Telegram perché lui è open source, un sacco di gente ci ha studiato, lo ha guardato, è un sistema fatto molto bene, è gratuito, ma devo essere sincero, se me lo mettessero a pagamento pagherei anche. E soprattutto è comodo, cioè io per sviluppare tutta l'interfaccia ci ho messo una domenica pomeriggio anzi, ci ho messo il 1° gennaio pomeriggio, okay. Che tra l'altro non è un giorno particolare, perché hai fatto bisboccia, hai bevuto di qua di là, ti sei alzato tardi. Io dopo pranzo mi sono messo e ho fatto tutto. Ok, quindi diciamo è davvero una roba alla portata di tutti. Sì, poi la libreria Teleport, se la guardate su GitHub, c'è il pezzetto di codice standard. Poi ovvio, se volete cominciare a fare il fork delle istanze, perché dovete parlare con 40 persone diverse, comincia a essere un po' più complessa. Ma praticamente in soldoni, tu dai i parametri di partenza, gli dici collegati, e poi hai una specie di select case. Quando arriva un messaggio, a seconda del messaggio fai questo, quello, quell'altro. Finito. Sì, è decisamente più semplice di quello che stavo... Sì, è veramente banale. Cioè, la parte difficile per me è stata quella, per esempio, di imparare come diavolo fare per collegarmi via Python sull'altra macchina Linux per riavviare il servizio Samba, piuttosto che per farmi dire che file ci sono dentro la cartella in sync. Bitsync. Vabbè, quindi diciamo ti devi un po' sbattere, però è una cosa minima, molto minima. Sì, funziona veramente in modo veramente facile. Poi mi sono fatto tutta la parte di log, quindi capisco quando qualche cosa non va. La libreria è fatta molto bene. Se va giù Telegram, il programma non cade. Ok. Da errori fin tanto che Telegram non torna su. Questa è un'ottima cosa. Moltissima gente poi si dimentica di questi casi, diciamo, estremi. In quel caso, moltissime applicazioni vanno giù pure loro. Sì. Il fatto è che se io gestisco il Raspberry anche con Pulseway, quindi se qualcosa non va, io dal telefonino riavvio il Raspberry e lui parte. Ma per esempio, se ci fosse che il programma va in crash perché c'è Telegram che cade e il servizio non si può riattivare da solo, diventa un casino. Mi è successo che Telegram è andato giù per 6 ore. Quando è tornato su, io ho mandato il messaggino, lui mi ha risposto. Anzi, mi ha risposto con l'ultimo messaggio che gli avevo mandato. Beh, quindi diciamo, ottimo. E quindi funziona bene e sono soddisfatto. L'altra cosa che non volevo fare era quella di usare servizi esterni. Ora, io per la mia casa non voglio fare la casa del futuro, nel senso non ho bisogno di fare chissà quali grandi cose, ma vorrei controllarla almeno a livello di consumi elettrici e di temperature. Mi piacerebbe poi anche guardare se sta piovendo, se c'è perdita d'acqua in casa, ma sono tutte cose assolutamente banali. Appoggiarmi a sensori di terze parti, dopo che ho sentito il caso di Revolve, dopo che non c'è nessuno standard, poi finisce che spendi soldi per cose che funzionano appena piantate dentro, però poi dopo 2 anni abbiamo tolto il supporto e si incarta tutto. Quello. Soprattutto. Sì, quello è un grosso problema di queste robe close. Sì, ma soprattutto di queste cose commerciali che non sai quanto tempo durano, perché anche Facebook ha dismesso il suo servizio delle notifiche push qualche tempo fa. Ha mandato in palla tutti, ma Facebook ha detto: questo è il codice sorgente del server web che dovete scaricarvi e configurarvi per far funzionare il vostro servizio. Finito. Revolve con Google ha fatto una cosa molto più sporca, ha smesso di vendere i dispositivi, 1 anno e 1 giorno dopo ha chiuso tutto, chi aveva il sistema Revolve lo ha dovuto togliere, non funziona più. Vabbè, niente. Giusto, come Nest se fallisse, cioè decidesse di chiudere da oggi a domani. Perfetto, e questa cosa mi ha un po' turbato, e il fatto di averlo io, cioè se Twitter muore io me lo riscrivo con esatto. Telegram, se Telegram muore... Di servizi di instant messaging ce ne saranno sempre, è una necessità che hanno tutti. Cioè non vedo un mondo dove tutti i servizi di instant messaging muoiano. Oh, infatti il tuo approccio devo dire che da una parte mi convince, nonostante quello che dicevo prima, perché tu ti leghi a qualcuno esterno, però fai in maniera talmente flessibile che se domani Telegram chiude, tu prendi un'altra libreria con un altro sistema di messaging e lo rifai uguale. Sì, tra l'altro tutto il codice di gestione è già fatto. Di conseguenza giusto. Faccio il copia e incolla dei singoli blocchi e funziona. Dovrei solo implementare la comunicazione e basta. Tutto il resto, già, la logica è già sta là. Esatto. Ottimo, ottimo. Ottimo, quindi mi sembra una cosa... Ma Giuliano c'è ancora? Si è addormentato con tutte no, le mie parole? Sono ammirato, è questo che devo dire. Ammutolito. Addirittura. Ok, Giuliano, se hai qualche considerazione, roba da chiedere, fazzi avanti, non ti preoccupare. Sì, no, stavo considerando il fatto che potrebbe esserci la possibilità di un'integrazione con un modem GPRS nel caso si volesse far fronte alla caduta di Telegram. Il problema sostanziale è che vabbè, si potrebbe prendere una di, non so se ci siano più SIM ricaricabili che durano tipo un anno con un tot di ricarica, poi devi rinnovarle, perché adesso vedo che sono tutte quante queste a rinnovo. Prima era mensile, adesso è quadrisettimanale, giustamente. No, ce n'è una di Telecom, la stavo puntando da un po', però è un po' cara, nel senso che ti offre 25 giga annui e quindi e costa 90 euro. Sì, ma io guarda, non intendevo di costi per il traffico, ma addirittura si potrebbe fare qualcosa con gli SMS. Beh, lì la SIM normalmente scade dopo 13 mesi se non la ricarichi. Ci sono ancora dei piani non a pagamento settimanale o mensile, ma tu paghi quello che consumi. Scusate, ma sempre... la ricaricabili in Italia non esistono più o cosa? Ah, okay. Sì. E va benissimo. La ricarichi una volta no, l'anno. No, c'è, ma... Sì, hai il vincolo che devi fare almeno una ricarica ogni... 5 euro ogni anno, Sì, il fatto è che tendenzialmente ci sono tutte queste SIM a traffico, cioè tu paghi X a settimana o X al mese, ora hanno fatto il giochino sporco tutti, X ogni 4 settimane, così i mesi sono diventati 13, e hai però tot minuti, tot SMS, tot... Volendo, un piano base non te lo puoi fare. Sì, okay. C'è, non ce l'hanno tutti, però c'è. Ci sono anche quelli solo a SMS. Ecco, io dicevo alla fine, una, per quanto anche se, una se cosa pagassi, del genere per avere la... una connessione di scorta. Ah beh, ma quello sì, secondo me più che per la caduta di Telegram è più per la caduta della ADSL di sì, casa sì, anche. Esatto, perché sì. È più facile che la DSL cada piuttosto che Telegram, quindi piuttosto che avere una SIM per mandare SMS, hai una SIM per comunicare usare dati, del traffico però dati. Però diceva Giuliano, giustamente, nel caso cada Telegram, Telegram ma non la DSL, ti fai mandare un SMS. Cioè, se gli torna un errore, ti fai mandare un SMS, sì. Sono offline, una roba così, e lo sai. Giusto. O comunque ti può mandare delle notifiche, guarda che c'è del movimento... Anche se non c'è la ADSL, se poi lo metti sotto UPS, consuma talmente poco che un UPS da 50 euro penso che lo tenga sotto. Tra l'altro dovrebbe esserci dei servizi, tipo anche Aruba vendeva tot pacchetti di SMS che tu potevi fare tramite internet. Quindi... Lo potevi fare tramite una pagina web, okay. Non so se tramite script. Forse non da loro, non ci ho mai provato. Ci sarà qualcuno che ti permette di farlo. Sì, ma ci sono anche dei sistemi che mandano gli script per mandare gli SMS alle chiavette quelle USB, okay. le sì, chiavette sì, sì. Con la SIM. Non so i prezzi, perché quello che ho visto io è che gli shield per il Raspberry con la SIM costano sì, ancora sì. cari. Sai che dai nostri amici ormai... Esatto, tutto... Con 4 euro risolvi il problema. Giusto. Ma 4 euro sono poi compatibili con le nostre sì. reti? Ecco, questo sì. Sì, ho già indagato perché ho già preso una, come si può dire, una piccola fregatura dagli amici. No, anzi, errore. È stato colpa mia perché non ho letto esattamente quello che c'era scritto e ho preso un modem che non è compatibile con le nostre frequenze, però... su quelli da 4 euro che ho notato da poco c'è scritto che sono quadriband, vanno bene per tutta l'Europa eccetera eccetera, quindi quelli potrebbero andare ancora bene. Beh, per 4 euro effettivamente... Diciamo che 4 euro è anche un rischio che si può... 4 sì, euro ovviamente, sì, spese comprese, cioè voglio dire... Giustamente, mi sembra il minimo, se no non li compreremo mai queste cose. Esatto. Giusto. Però 2 mesi sempre, dobbiamo ricordare a tutti gli ascoltatori. Ma io ho comprato le ultime UEMOS, ho speso la folle cifra di $1.20 di spese di spedizione, ci hanno messo 30 giorni con la raccomandazione. Sì, si stanno attrezzando. Io un po' che non compro, sono un po' fuori dal giro, quindi voi mi potreste dare dei consigli. Sì, sì, infatti ho sentito gli amici che ti cercavano. Lo so, io ho pagato tutto fino adesso, quindi... Ok, perfetto, quindi ok, la cosa mi sembra abbastanza interessante, devo vedere. Io ho detto, ho un paio di progetti neanche in cantiere, ce l'ho in testa, perché con tutte le cose che ho da fare tra figli, lavori eccetera sono un po' incasinato, però sta cosa potrebbe essere interessante per la... Io sono anche il problema, la cosa che dici tu della mamma, ma io sono anche mia moglie, per dire, se faccio un bel... Ma noi, guarda, abbiamo fatto così, non parlo io con il bot, io ho fatto una chat. Ah, ok. Quindi visto che con le API di Telegram puoi scrivere dentro un gruppo, io ho creato il gruppo. Il bot scrive sempre solo dentro a quel gruppo lì. E da un file di configurazione che ho imparato a costruirmi con Python, che è una figata pazzesca, io non la sapevo sta roba. C'è un comando solo per leggere i file di configurazione. Ma configurazione scritti come? Giusto per curiosità. Testo. Ah, okay. Cioè tu fai il testo e metti variabile valore. Ok, quindi è scritto. Ah. Non so, come quando ti configuri Samba su Linux. Ah, stessa okay. roba. Il cancelletto è un commento, ti fai le macro categorie e le variabili dentro. Io ho 5 account che posso attivare o disattivare con Telegram. Quindi ora io e Valentina siamo dentro questo gruppo e quando lei esce di casa attiva, quando io torno spengo, per esempio. E ovviamente tutti e due sappiamo quando il sistema viene attivato oppure spento, perché facciamo parte del gruppo. Se qualcuno che non è nell'elenco degli ammessi scrive a me, Telegram risponde: guarda che questa persona ha scritto questo. Ah, lui ora non mi ricordo più, o non risponde o gli dice servizio non attivo. Ma appunto. Perché il gruppo non è segreto? Cioè non si può mettere segreto. Il gruppo non puoi farlo segreto e il bot neanche. Ok, però prima che uno possa scrivere nel gruppo ci sono tipo un gestore, io non sono esperto. No, quello sì, ma se qualcuno fa una ricerca nell'indice dei bot, lo potrebbe beccare, quindi gli potrebbe scrivere direttamente. Lui fa il filtro sull'ID univoco dello user. Ok, quindi se non è abilitato, diciamo, non può comandare. Giusto. Io per esempio, quando parto per le vacanze, chiedo a mio fratello se vuole venire a dormire qua. Okay, lo metto dentro il gruppo e lui può accendere e spegnere in autonomia. E io so quando ha acceso e quando ha spento. Quindi in teoria potessi, se c'è una donna delle pulizie o chiunque, puoi metterlo dentro e... Okay. Giusto, tra l'altro puoi persino fare in modo, lavorando con i codici, secondo me con una quantità di tempo veramente piccola, fai in modo che oltre a mettere le persone ammesse, gli dici che possono rispondere dalle alle. E quindi okay. Se tu sai che la signora delle pulizie viene quando non c'è nessuno, il lunedì dalle 10 a mezzogiorno, okay, se rubano il telefono non vengono la notte a rubare tipo... Giusto, giusto. Tu fai in modo che lei possa disattivare il sistema dalle 9 all'1. Okay. Questa è una cosa molto molto buona. Ottimo. Qui. E questa cosa qua, insieme a Telegram, ho anche fatto una parte extra. Mi sono fatto un piccolo servizio web che non farò mai più con Python, perché l'ho fatto, funziona, ma non so perché. Che si prende delle chiamate HTTP GET e può memorizzare dei dati. Di conseguenza, appoggiato a questo, ci ho messo i miei sensori. Quindi io ho questo Raspberry che parla con Telegram, accende e spegne la videosorveglianza e aspetta dati da qualunque tipo di sensore. E li parcheggia su SQLite 3, che è il database più facile del mondo. Esatto, infatti stavo vedendo un po' nel tuo repository, che poi linkeremo giù nelle note dell'episodio. Questa roba c'è tutta. Sì, sì, tutto il codice che ho fatto è messo lì. Non ci sono le ultime versioni, perché le metto solo quando sono certo. Stabili, diciamo. Sì, sì, quando è stabile vado e incollo. E ho fatto questa specie di piccolo server web che non fa altro che prendere il tipo di sensore, dove è messo il sensore e qual è il valore che il sensore mi sta mandando. Poi il bot di Telegram, se io glielo chiedo, fa tutte le query che servono e mi risponde con i valori. Per esempio, il primo che ho fatto è stato il sensore di temperatura. Grazie al buon... Cioè, avevi postato qualche immagine, tra l'altro. Sì, giusto. No, l'immagine l'ho postata del consumo di corrente, che se poi c'è tempo ne parliamo dopo. Senti, una cosa che sto avendo in scaletta, tu parli... Hai anche messo delle password nelle password di GitHub. Lascia Spero perdere, l'ho fatto esatto. La prima volta ed è stato un casino. Mi ricordo, un casino. Sì, allora, quando usate GitHub per la prima volta, fate attenzione... È da quella cosa che ho imparato a usare il file di configurazione, perché quando si incolla qualche cosa sul repository di GitHub, lì è e lì resta. Quando fate il primo commit, è eterno. E avete messo la vostra chiave public, no, la vostra chiave privata del bot di Telegram, non potete fare altro che farvi dare una nuova chiave privata del bot di Telegram. Perché guarda, vai. La cancellate, ma resta lo storico. Sta nello storico. Però ci sono. Ti posso dare tre modi poi per risolvere questa cosa. Poi vai, ti lo dico alla fine. Il primo che ho imparato è distruggere il repository e farne un altro. Ok. Gli altri. Puoi rifarlo con lo stesso nome, una cosa che ho sempre avuto il dubbio. Non lo so, perché io il nome ho fatto che cambiarlo. Cambiavo. Ok, perfetto. E gli altri due? No, aspetta, questo no. Allora, quattro. Allora, ci stanno. Aspetta, allora, una tecnica è quella. Allora, una è quella di. Ci sono dei meccanismi automatici per crittare alcuni file su GitHub. Nel senso, quando fai il push, lui fa critta con chiavi pubblica privata alcuni file che tu definisci e li mette su GitHub crittati. Quindi, se li tiri giù, li puoi solo vedere tu che c'hai la chiave. Quindi, puoi mettere quello che vuoi su GitHub. Però, in questo caso, non è utile. Un'altra tecnica molto figa è quella di. Tutte le robe che tu fai, tipo hai bisogno della API come sviluppatore delle password, eccetera, le metti in un file shell.sh e queste qui, praticamente, quando esegui quel file, lui mette in variabili di sistema questa roba, quindi quando poi la shell successivamente richiama roba che ha bisogno di quelle variabili, quindi password, tu ci metti le variabili dentro. Quel file lì lo metti nel git ignore, quindi non verrà mai pushato su GitHub. Ah, ecco. Ok? In modo che tu separi le due cose. Quindi, logicamente, metti tutte le password da una parte in un file che non viene mai messo su. Poi, nel readme spiega, ok, devi fare così. Fatti un file così, cos'ha, che poi, se usi questo repository, non verrà mai messo, perché nel git ignore è esplicitamente scritto che non deve essere messo su. Ok, e quindi ti eviti proprio di fare il commit di quella password. Che è la cosa migliore, perché così sei più tranquillo. È la cosa proprio più che fare... Cioè, sto pensando anch'io, perché... Effettivamente tu quando fai un progetto, fai tutto che funziona da te, poi prendi, lo butti in un repository Git e dici vai, lo metto pubblico, come hai fatto la prima volta. Hai la chiave del bot, hai la password della tutto, wifi, tutto. Hai la nome della wifi, hai tutto. Ma c'è anche spesso i path sulla tua macchina, quindi se uno casomai entra già tutto dove sta la roba. Esatto. Meglio evitare tutto questo problema. Ma infatti poi sono andato a leggere sulla guida di GitHub e loro hanno scritto chiaramente tutto quello di cui fai commit è di dominio pubblico per sempre. Ah, ecco, no, ecco. C'era il terzo modo, cioè il quarto, oltre quello tuo della distruzione termonucleare, che ho trovato un programmino che si chiama un programmino Java che è tipo... BFG, non mi ricordo per cosa sta. Comunque, diciamo, ci sono tecniche per modificare la storia dei repository, però è un bordello inimmaginabile. Io l'ho fatto perché sto usando un paio di repository che sono veramente un po' di script Python, ma pochi, e ho visto la dimensione. Ogni volta che tiravo giù sti repository erano 20-30 mega. Poi sono andato a vedere nella storia e c'erano tipo per un periodo hanno cominciato a mettere programmi compilati per Windows, per Mac, poi non li hanno più usati, tipo 2-3 anni fa, sono rimasti nello storico. Quindi io per tirarmi giù 300k di codice Python mi tiravo giù ogni volta 25 mega. Che bello. Allora, ho cercato, ci sono modi per fare modifica della storia, e in particolare c'è il più efficiente di tutti, un programmino in Java fondamentalmente, che io poi ho fatto girare tutta una macchina virtuale per non dovermi installare Java sulla macchina, però funziona benissimo. Il problema grosso è che se tu poi vuoi ripushare indietro questa roba che tu hai modificato, c'hai dei conflitti, perché la storia che è su GitHub è diversa dalla tua. Ah, ok. Quindi, okay, se tu lo fai in locale e pushi il locale, cosa che puoi fare, cioè committi il locale, scusami, poi dopo puoi tornare indietro e cambiare la storia, e quello poi lo prendi com'è e lo puoi mettere pubblico volendo. Però diciamo un livello di difficoltà ulteriore. No, ma poi tieni conto che il mio uso di GitHub per i codici è generare un file, fare il copia e incolla dal mio editor di testo dentro al file. Okay. Cioè non uso il programma Git. Ma cioè tu dici il programma Git da terminale? Sì, giusto. Vabbè, in realtà questa roba la puoi fare anche con le GUI, ci stanno un paio di GUI sia di GitHub, anche il Bitbucket, c'è una molto bella, tutta super grafica. E io ne uso ancora un'altra, molto carina. Penso che lo puoi fare anche da là, però non sono sicurissimo. Poi casomai ve le linko tutte giù. Ok, ok, perfetto. E comunque, imparare a usare GitHub è stato uno delle cose che ho dovuto fare per questo progetto, perché non ho mai messo niente sopra. Tutti gli altri miei codici che avevo fatto, quello con Twitter, era tutto quanto codice messo sul mio sito. Il fatto è che GitHub gestisce molto meglio la condivisione del codice sorgente. Anche il versionamento. Sì, sì, sì, ci, sì, sono, sì, ci sono libri e libri su Git che non stiamo qua proprio a parlare, se no non ne usciamo più vivi. Ed è molto molto comodo. E quindi praticamente cos'è che ho fatto? Oltre a far partire... Dunque, torniamo un attimo al core. Mi è successo che è saltata la corrente. Salta la corrente torna, il Raspberry torna su a una velocità molto alta, il mio router ADSL ci mette dai 5 ai 7 minuti, perché quello con la fibra prima di agganciare è lentissimo. Non ho mai capito perché. Tu sei fuori. Ecco, il fatto è che se tu fai partire tutto ma non hai la connessione è un casino. Poi soprattutto se qualcuno ti stacca corrente oppure va via la corrente mentre tu non ci sei e c'è l'antifurto acceso, quando poi la corrente torna è furbo che l'antifurto si riaccenda. Beh, direi. Ecco, quindi ho fatto nel boot di questo sistema, a parte che lui parte con il cron, gli ho detto fai il boot, aspetti 60 secondi e poi parti. Lui che fa? Controlla che ci sia la connessione a internet. Quando c'è la connessione a internet, allora fa partire tutto quanto, fa la connessione al sistema di Telegram e mi avvisa, mi dice guarda, sono appena partito, questo è il mio nuovo IP pubblico, questo è il mio IP privato, per sicurezza ho avviato la videosorveglianza, così io so se è successo tutto quello che è successo. Comunque, in più... Giusto... Dice, con Pulseway io ho il sistema che dopo che il Raspberry non parla più con internet per 20 minuti mi avvisa, mi dice guarda che sei offline. E questo è ottimo. A questo punto riesco a essere un po' più tranquillo sul fatto della disponibilità. Ovviamente comunque per dica. Scusami, vai. Per la storia dell'IP nuovo eccetera, io utilizzo un servizio di DNS, come dire, per poveracci, che in realtà è gratis. DuckDNS, che sì. Lo usi anche tu? Sì, sì. Ok, io apparentemente ho fatto una donazione di $10 perché mi è sembrato utilissimo e mi hanno mandato ringraziamenti, sono un cliente d'oro, adesso la papera dorata. Forse eri il secondo nel mondo. No, vabbè, dai, per $10 va benissimo. Poi se tu vedi nella documentazione di DuckDNS, che io consiglio a tutti, c'è spiegato anche per qualsiasi sistema, anche per linea di comando, come farti lo scriptino che runna su tipo su Linux, semplicissimo, che ogni volta che lui controlla ogni tot minuti se ha cambiato IP, e se l'ha cambiato lo comunica a loro e ti rinnovano il DNS. Quindi di un comodo, casomai quello che dicevi tu, se ti devi fare il sistema tuo, sono anche sistemi abbastanza semplici per farlo, e DuckDNS è sicuramente uno di questi che posso consigliare a tutti. Però il fatto è che non ti avvisa quando cade. No, però se ti fai uno scriptino tuo sulla tua macchina ti puoi mettere anche un... vabbè, tramite Telegram, come vuoi, un modo che ti avvisa. Se te lo devi fare tu, ovviamente, lo devi fare a mano, diciamo. Ma io uso Pulseway perché ha l'app su qualunque dispositivo. Funziona bene perché, per esempio, con Pulseway posso dire al Raspberry di riavviarsi se c'è qualcosa che non torna. Piuttosto che mi avvisa lui se il Raspberry si è riavviato, mi avvisa se si sta riempiendo lo spazio disco, cioè è un sistema di monitoring fatto molto bene. Tra l'altro la versione a pagamento è assolutamente economica, perché costa 16 euro all'anno per ogni macchina, quindi ovviamente è affrontabilissimo. Linkerai tutto questo? Sì, no? Sì, Pulseway ve lo lascio nelle note, forse l'avevo anche già... Già, segnato. Hai ragione, l'avevo anche già aperto, figurati che sono un po' rincoglionito. Perfetto, io, benissimo. Perfetto, ottimo. Quindi c'è. Bene. Quindi che ho fatto? Lui quando parte fa partire il sistema che si collega con il server Telegram e fa partire questo serverino web. Io che faccio? Tutti i sensori che mi sono costruito e che mi costruirò, dico loro di scrivere le informazioni dentro questo server web con una get. E la posso fare praticamente con qualunque dispositivo. C'è il buon Giuliano che una volta mi ha detto: perché non provi queste schede? Te lo ricordi, Giuliano? Mi ricordo. Ecco, io ne ho ordinata una con il sensore DHT22. Ci ho bestemmiato un po' perché era la prima volta. L'ho programmata con l'IDE di Arduino. E lui è un mese e mezzo, forse due già, che... ogni 10 minuti scrive temperatura e umidità in una tabella di SQLite. C'è una cosa che devo criticarti, che ancora non hai cacciato un tutorial per questa cosa, perché non voglio bestemmiare. Aspetta, no, non l'ho cacciato per un motivo semplice, sto aspettando il sistema per alimentarlo a batterie. Perché come tutti sapete, quando si vive in casa con altre persone, le altre persone non tutte accettano fili volanti per casa. Sicuramente moglie e fidanzata. Perfetto. Esatto. E, visto che ho una fidanzata che diventerà moglie e sarà sempre lei, e non vuole fili per casa, ma la posso capire, mica posso riempire tutta la casa di cavi volanti. Perché no? No. Perché poi quando lei fa le pulizie mi dice: no, senti, fai che farle tu. Ok, e questa quindi... è una buonissima scusa per non mettere i fili. O per non fare le pulizie, scusa. No, tanto le pulizie le facciamo entrambi, quindi. Okay. Ma scusa, compri un romba e accalo e poi dopo sì, volante, ma lui drone pulente. Lui fa per terra e io fai un drone aspirapolvere. Comunque, ci starebbe. Sto aspettando che mi arrivino le scatolette per le piastre e gli adattatori micro USB. Voglio fare i test per renderli mobili. Quando ho tutto il pacchetto mobile con una confezione fatta bene, che funzioni, tra l'altro al lavoro mi hanno consegnato le nuove cartucce LTO6 e le scatole mi sembrano perfette, me ne porto una a casa, la taglio per far uscire il sensore, la coloro dentro e voglio vedere se riesco a mettere un po' di questi cosi sparsi per casa, così loro ogni 10 minuti scrivono nel DB e io quando interrogo Telegram mi dice: guarda, l'ultima lettura che ho fatto è di questi gradi, la massima di oggi è questa, la minima di oggi è quest'altra. Giusto per curiosità, ma oltre alla lettura, io una roba che stavo pensando anche con i Raspberry Zero, quando arriveranno nel prossimo secolo probabilmente, nel giorno del mai. Esatto, orientando sugli ESP pure io piano piano, appena c'ho tempo. No, cosa che mi chiedevo è fare anche la lettura dello stato della batteria, no? Perché dovrei intanto vedere a che stanno per andare a caricare. Cosa lì si può fare, e Giuliano ne sa molto di più perché lui lo ha fatto, vero okay. Giuliano? Sì, allora si può fare perché l'ADC che ha integrato l'ESP ha la possibilità di leggere direttamente la tensione di alimentazione, per cui potresti anche interrogarlo sul voltaggio che sta dando la batteria. Scusami, tu dici se non sbaglio c'ha un piedino ADC, sì, di esatto, GPIO, esatto, ma tu dici che legge lo legge direttamente la tensione di alimentazione o devi farti un circuitino tu per collegarlo? No, lo legge direttamente, devi solo impostarlo via software. Ok, questo me lo fa salire i miei occhi. Questo mi serve proprio. Perché stavo pensando come farlo su Raspberry, è un bordello. No, no, io l'ho fatto, funziona, e con due pile stilo e con un altro accrocchietto sono riuscito a fare 3000 letture circa. Madonna, con una batteria, con una carica, diciamo. Con, sì, con due stilo. Allora, con io se metti delle lipo non finisci più. E lì sì, è tutto questione di milliampere ora. Io credo che con le litio si possa fare anche qualcosa in più. Specificherei per i più nerd gli accrocchi che ha detto Giuliano. Praticamente il WeMOS, quello che uso io, si alimenta a 5 volte. Lui dentro ha un riduttore a 3,3, perché la scheda funziona a 3,3. Ci sono dei dispositivi che innalzano la tensione, quindi se tu dai due batterie stilo in serie, hai 3 volt, c'è questo sistema che te lo porta a 3,3 fino a che la tensione in ingresso, correggimi se sbaglio Giuliano, è 2,2 qualche cosa, giusto? Sì, esatto. Quindi diciamo che si possono sfruttare anche le batterie quasi fino in fondo o più in fondo di quanto di solito si sfruttino. Mm-hmm. Perfetto, di conseguenza tu hai il 3,3 applicato sul pin giusto. Io volevo affrontarlo in un modo sensibilmente diverso, che magari ha un costo più alto, ma forse mi permette di lavorare in maniera un pochino più facile. Io voglio dare sulla micro USB 4,5, quindi 3 pile stilo in serie. E ho letto che l'adattatore che abbassa a 3,3 ha una tensione molto molto bassa di scarto, cioè io posso anche dargli solo 3,6. Mm-hmm. Se gli do 4,5, lui fino a che le batterie danno 3,6 volt funziona. Volevo fare questo test qui. Visto che funziona anche a 3,6, si possono mettere le lipo, però per le lipo hai il problema del caricabatterie, che deve essere molto particolare. Sì, diciamo che quasi quasi è meglio che le lipo che utilizzi siano facilmente estraibili, perché poi le metti a caricare nel suo caricabatterie, insomma. Devo essere sincero, da questo punto di vista, ora non so se ci sono altre schede con ESP che lo fanno, ma l'Arduino Maker 1000 ha il circuito di ricarica e di gestione della lipo già di serie, anche già il connettore classico, quello bianco con i due pin. Guarda, ti posso dire che su questo fronte qui mi sa che Arduino sta correndo un po', anzi sta un po' rincorrendo, perché se prendi lo USA, come diavoli si chiama, Fitter forse, non mi ricordo esattamente come si dice, ha anche il sistema per la ricarica delle lipo, è alimentato anche con quelle. Quindi basta solo più metterci un pannellino solare, lui di giorno si carica, di notte va con le batterie e nessuno cambia più le batterie. Esatto. Comunque io questa cosa, che tutti i circuiti funzionano a 3 e 3 e tutte le batterie sono o multipli di 1,2 o multipli di 1,5, è una cosa antipaticissima, perché 3,3 non è multiplo di niente e quindi devi adattare comunque sta maledetta tensione. Beh, multiplo di 1,1 ma non ci sono moduli a 1,1, e tipicamente se tu alimenti un circuito che va alimentato a 3,3, anche solo con 3,6 bruci comunque tutto. Beh, l'ESP a 3,6 ci va, oltre no, ma 3,6 sì. E se poi c'è comunque la batteria che va un pochino di più, sei fatto. Scusatemi, volevo ricordarvi una cosa che mi era venuta in mente, mo sto controllando su dai nostri amici cinesi. Ci sono i moduletti USB da un lato e il lipo dall'altra parte, che vengono via a 2-3 dollari, anche un dollaro, eccolo qua. Ma funzionano bene, perché purtroppo con le lipo c'è un problema di base. Se sbagli la scoppia corrente tutto di carica, oppure se non ti fermi quando è il caso di fermarsi, quella roba lì incendia. Beh, oddio, puoi provare tu. Non per me. Sì, provare io, perfetto. Vedi, se non ti sento più non è andata bene. Ecco, benissimo. Se leggi sul giornale incendio a Torino per una batteria che è scoppiata, Esatto, e urla cinesi per la strada. Tra comunque... l'altro, le batterie dei cellulari non è che siano tanto più, più stabili. Ho visto un video di uno che ha piantato un coltello dentro una batteria, ha fatto una fiammata della Madonna. Attenzione anche a lavorare con quelle batterie lì. Vabbè, attenzione ai coltelli nei cellulari, che è una cosa che non consigliamo, diciamo. Però è come tu mi dici, no, sai, quella ha messo il cellulare dentro il microonde per farlo asciugare perché gli hanno detto così ed è scoppiato. È strano. No, ma sai che c'è tantissima gente, ora forse usciamo un attimo dal seminato, ma c'è gente che pensa che nelle etichette delle batterie ci siano dei sistemi che tracciano il telefono, sai, quelle persone ansiose, le scie chimiche, eccetera. Okay. Quindi che fanno? Comprano il telefono, lo aprono e staccano col coltello, poi è un RFID, né più né meno. Il fatto è che staccandolo con il coltello tolgono la parte di rivestimento della batteria. Aia. Quella roba lì tu te la tieni in tasca, te la porti all'orecchio, cioè rischi veramente di farti male. Quindi a parte quello, poi tutta la roba chimica che può colare via. Le batterie non vanno toccate, punto. Le lipo ancora di meno, anzi se le lipo cadono per terra sono pericolose. Senti, comunque, a proposito, dato che siamo fuori seminato, ultimamente stavo tornando in treno da in giro, stavo per lavoro, e ho visto uno seduto a fianco a me che aveva il laptop con cui lavorava con il naso isolante sulla webcam, cosa che io ho sentito solo nei forum di più assurdi pazzi. Gente che pensa, l'ho sentito parecchie volte, guarda, questa ma io l'ho visto live, cioè aveva due pezzi di naso isolante sulla camera del laptop. Sì, ma è normale. Bravo. Ah, vabbè, meno male, mi ero preoccupato. No, è normale, e per certi utenti è normale. L'ho capito, però dai, è follia. Vabbè. Comunque, senti, avevo una domandina su una parte di prima, quindi vai, finisci questo settore. No, poi la parte di sensoristica è molto molto banale. Io ho programmato l'ESP con l'IDE di Arduino, praticamente gli ho detto collegati con il Wi-Fi, fammi la lettura del sensore e poi scrivi via web, visto che l'ESP c'è questo bellissimo cosa che è il Wi-Fi, scrivi via web la lettura sul Raspberry, poi spegniti e resta in stato dormiente che consuma poco per 10 minuti, poi ti riaccendi e rifai il giro. Quindi fai una chiamata web HTTP e via. Sì, giusto. A proposito di questa questa cosa qui del fatto che tu mandi il LESP in deep sleep e poi lo fai ripartire, c'è un piccolo accorgimento che ti fa risparmiare un bel po' di batteria, perché ogni volta che l'ESP riparte, in pratica ricarica i dati del tuo Wi-Fi per potersi riconnettere, però c'è la possibilità di salvare questi dati in una sua memoria interna, in modo che lui non debba riprenderli ogni volta per la riconnessione, e questo ti fa risparmiare almeno un secondo sulla riconnessione, che tipo sembra così, ma non è pochissimo se tieni presente che per fare la lettura e mandare tutto ci mette qualche secondo. Se ne risparmi uno, hai già risparmiato magari un terzo o un quarto di energia. Ma esatto, quindi anche di energia alla fine, no? Sì, e soprattutto visto che è un secondo ogni lettura, è un secondo ogni 10 minuti, dopo tante letture fa tipo 40 minuti di lavoro. Eh sì. Ok, ma io su questo avevo due o tre domande. Allora, uno, quella cosa che tu hai scritto in scaletta, che è una domanda che io avevo. Quindi tu, il suo serve, aspetta, una volta che hai fatto tutto questo accrocchio e hai scritto sti dati, ce l'hai fondamentalmente in un file su Raspberry. Sì, giusto. Che però funzionano solo, cioè stanno lì, li può usare solo il server Telegram. Allora, mettiamola così, il SQLite ha grossi vantaggi e uno svantaggio enorme. Lo svantaggio enorme è che non è multi-client. No, per niente. Di conseguenza, se tu fai delle letture da più persone, cioè da più punti, giusto, contemporaneamente, sì, incarta. Se lo vuoi, sì, giusto. E com'era? Era, e non so tecnicamente come si dice. Mi sa che era un tipo, si chiama database atomici, perché le transazioni vanno fatte parallelamente, però vanno, l'utente va tutelato, un casino, non sono esperto di database. Soprattutto lui non ha autenticazione, non ha niente, cioè la connessione è quello, è il file di DB e lui lo apre, è una libreria di Python, due righe, hai fatto la connessione e sei attivo. Ok, capisco. Quindi tu in teoria potresti farlo con un lock file, nel senso, se usi sempre tutto sulla stessa macchina, quando apri quel file metti un lock file e se c'è quel file lock là non puoi aprirlo, poi se ti arriva una lettura in quel momento mentre stai aprendo un'altra cosa la perdi. Beh, pazienza, cioè a un certo punto... Senti, se no, quello che stavo pensando, io ho utilizzato... Per farti ricordare che anche io ho cominciato a fare una roba del genere con Raspberry, e per la comunicazione e per la parte database ho utilizzato un'altra roba, cioè invece di utilizzare l'HTTP, che per quanto è super standard, diciamo, è già più pesante come protocollo di altri, io ho usato il Mosquito, MQTT, giusto, grazie Giuliano, che è di una leggerezza assurda, e c'ha anche il vantaggio che se tu il tuo sensorino lo metti lì, come Giuliano, aiutami se dico qualche cavolata. Tu lo metti lì e lui fa il broadcast del messaggio MQTT. Tu su Raspberry ti registri a quel che si chiamano canali, sì. Registri a quel canale. Ogni volta che lui manda un broadcast nuovo, automaticamente il client si occupa di leggersi e ciucciarselo. Però, dato che sei sulla stessa rete, tu potresti anche farlo sul tuo cellulare. Io ho preso un paio di clientini Android MQTT per testare, e quei messaggi ci arrivano anche lì. Quindi è tutto un sistema di broadcasting molto ben fatto e super leggero, una roba fantastica. E ci sono anche librerie, ovviamente, per tutto, per Python. E l'ESP c'ha, se non sbaglio, su NodeMCU, quindi sul il firmware fatto in Lua, può fare un client e server MQTT abbastanza facilmente, se non erro. A voglia. Erro? No, non erro, a voglia lo fa. E quindi quello al posto del web dell'HTTP lo potrei consigliare. E seconda cosa, per la scrittura, io invece di usare SQLite, perché c'ha questi problemi che fondamentalmente SQLite non è molto diverso che scrivere in un file, cioè non è che ha grossissimi vantaggi, a parte che ha un po' di roba di database all'interno per fare ricerche, eccetera. Io avevo cominciato a usare un'altra database che si chiama Prometheus, scritto in Go, che è fatto esplicitamente per le serie temporali, e c'ha all'interno, quando tu lo lanci, lo metti su Raspberry, a parte che avevi il database suo, ma c'è anche un'interfaccia web interrogazione direttamente fatta, cioè che gira già di suo quando lanci il server, quindi puoi interrogarlo anche collegandoti a Raspberry in HTTP tramite Chrome, ti metti e ti fa un paio di query per vedere come è fatto, però è di una velocità estrema, è fatta specialmente per le serie temporali, quindi le cose come queste con sensori e tempo attaccato le salva e te le visualizza in maniera molto molto efficiente. Metti nelle note, perché sono due cose che non conoscevo e sono interessanti, perché per esempio io per fare la query dei consumi elettrici, ne parliamo dopo, il Raspberry ci mette una quindicina di secondi, che è lento. Io avevo Prometheus che girava su Raspberry, il problema è che sono tutte cose non compilate per ARM, quindi per metterlo su Raspberry ci ho dovuto penare, e c'è anche un'interfaccia grafica, che quello che avevo mostrato, che alla fine non sono riuscito e l'ho fatta girare sul Mac in una macchina virtuale, che si chiama, è basata su Graphite. Se voi avete mai visto, presente nei server, tutte quando fanno quelle query storiche sul load, sul traffico, eccetera, tutti quei grafici fatti abbastanza carini, però un po' old style. Sì, quelli lì, tipo Cacti o tipo Zabbix o queste cose qua. Quello si chiama Graphite, la libreria sotto che fa questa roba. No, aspetta, sì, e basata su questa c'è una nuova interfaccia basata tutto in HTML5 JavaScript, si chiama Grafana, che è molto figa e si interlaccia direttamente a questo Prometheus, quindi come tu vedessi delle query real time di, pensa come fossero server, però invece metti i sensori sotto. Questa interfaccia qua è anche scritta, era in Go? Non vorrei dire una cavolata, comunque volendo te la puoi compilare, gente che l'ha fatta, però ci vogliono ore, perché non esistono robe già fatte per ARM, è l'unico guaio di questa mia configurazione. Comunque vi scrivo tutto perché ho già le note prese. Beh, per io tutta questa quando roba. Ho compilato la libreria grafica per far girare Motion sul Raspberry, il Raspberry ha lavorato mi pare un'ora e mezza solo per la compilazione, volevo morire. Ah, ma niente, di queste robe che ti dico si parla di 5-6 ore, di Raspberry 2 o 3, di 2. Io sono Raspberry 1, come tipo il tuo, quindi saresti morto probabilmente. Beh, lo fai partire la sera, vai a dormire, vai in ufficio, torni, magari ce l'hai. Torni, errore, ovviamente. Beh, ovviamente. Certo, al 92%. Guarda, vabbè. Meno male che io non ho Raspberry per fare queste cose qua, altrimenti... Ma devi comprarlo, devi farle queste cose. Allora, con il Raspberry, dopo la puntata che abbiamo fatto su RetroPie, devo solo più ordinare i pad, lo appiccico dietro alla TV e ho la mia console. Io ce l'ho. Non ce l'ho già fatto. A fianco al coso, al Media Center, quello. No, altri, ma anch'io ce l'ho il Raspberry B+, ma non lo uso per fare queste cose troppo complicate per me. Troppo complicate. Ma è più bello. Ma la cosa bella è che la complicazione, poi, se tu guardi, è a seconda di quello che tu conosci già. Perché, per esempio, secondo me, sviluppare il bot su Python è stato meno difficile che andare a capire come diavolo fare questa chiamata in HTTP dall'IDE di Arduino. Per quella cosa lì ci ho sbattuto la testa, ma 4 giorni. Cioè, una roba pazzesca. Invece il bot fatto in Python ci ho messo davvero un pomeriggio. Dipende tutto dalle affinità che hai tu. Cioè, io sono molto più sullo sviluppo del codice a livello alto. Tu, Giuliano, secondo me sei molto più orientato a il circuito e sviluppare il codice a livello basso per il tal circuito. È per quello che lavori molto molto bene con l'ESP. Sì, è possibile, ma tra l'altro, vabbè, diciamo che poi sta anche a seconda di quanto segui il movimento espiano. Si può dire movimento espiano? Io mi sono accorto che meno lo seguo meglio è, perché mi sono rotto un po' le scatole, che ogni volta che compro qualche cosa a tempo che arriva dalla Cina sono usciti già tre modelli nuovi. Cioè, no, guarda che ancora non è uscito il 32. No, infatti, no, vedi, su questo invece diciamo che ancora stiamo a livello dell'ESP 8266, perché non abbiamo ancora il discorso dell'ESP 32, che invece è stato annunciato e che uscirà credo a settembre, quindi insomma. Okay. Ma prezzi ancora non si sa niente. No, dei prezzi non si sa niente, però ci sono delle prevendite su prenotazione, e se fosse quello effettivamente il prezzo staremmo tutti molto molto sereni, perché dacci un'idea se puoi. Come? Dacci un'idea se puoi come prezzo. Sì, no, le prevendite stanno tra gli 8 e i 10 dollari. No, guarda, è 10 dollari, tenendo conto che le alternative fanno da 30 euro più IVA a salire. Sì, ma l'S32 è una belva. Lo dicevamo l'altra volta, mi pare, cioè sui costi non ci siamo proprio. Per loro, insomma, per me va benissimo. Purtroppo ho fatto 4 chiacchiere con i signori di Arduino alla Maker Faire, lo sanno anche loro, ma non sono stati in grado di scendere come costi di produzione e sviluppi, e soprattutto il nuovo Maker 1000 praticamente finanzia la loro infrastruttura cloud. Cioè, quando tu compri, certo, il Maker 1000, una parte di soldi va nel loro Arduino Create, che non so se avete mai visto. È interessante, si sviluppa tutto quanto su web. Ma quella roba con l'interfaccia grafica in cui fai tutto lì e poi lo fai deploy sul tuo device. È una cosa interessantissima, funziona molto molto bene e ha possibilità di espansione assolutamente molto molto ampie. È già tutto pronto in HTTPS, cioè hanno lavorato molto bene da questo punto di vista, però scendere sotto quel prezzo lì, mi hanno detto che loro non ci riescono. Io ho detto sì, però l'ESP costa 4 dollari, e mi hanno detto e lo sappiamo. Eh sì, ma non ci puoi fare, non puoi combattere contro quel livello, secondo me. E poi un'altra roba, cioè. Adesso quelli di Arduino.org l'hanno integrato in un Arduino l'ESP. Sì, c'è l'Arduino 1 con l'ESP dentro per il Wi-Fi, che secondo me è una figata pazzesca, perché funziona l'OTA, cioè riesci a farti il progetto, lo metti wifi e poi aggiorni il codice via wifi. Io per esempio con l'Arduino Yun, che ho pagato un sacco di soldi quando era uscito, mi pare 60 euro, è quello con cui mi sono fatto il sensore di assorbimento di corrente. Non posso aggiornarlo via OTA, e quindi se devo aggiornare il codice devo andare là, staccarlo, smontarlo, portarlo vicino al al PC, eccetera. È una rottura di scatole non da poco. Mentre l'Arduino 1 di Arduino.org, che è con l'ESP, è sia connesso che aggiornabile via Wi-Fi, è fighissimo. Ma, tra l'altro, io sinceramente rispetto a questa cosa qua trovo un solo campo applicativo per questa cosa qua, ed è quello per cui lo sfruttamento di Shield che uno possa già avere in casa, perché altrimenti io sinceramente il perché usare un Arduino 1 con un ESP appiccicato sopra piuttosto che usare un ESP da solo, a parte il fatto degli ADC in più, perché comunque ci metti un ADC da 8 canali con in I2C e costa $5-6 tra l'altro. E però quanto è complesso da configurare un convertitore analogico? Ma pochissimo, dipende su che, se, come, no. Come lo attaccheresti sulla I2C? Certo, sì. E allora sì, diciamo, è facile. Sì, è abbastanza semplice, ma anche perché le librerie ci sono già tutte, quindi sì, non esatto. È che devi inventare cose strane da capo, altrimenti è meglio non provarci, a meno che tu non sia un grande conoscitore delle varie cose, ma a quel livello lì, cioè, veramente, voglio dire, con €5 te ne esci. Beh, l'Arduino 1 con il Wi-Fi cosa fa? 25? 22? Non mi ricordo più. Più o meno, ma consideriamo anche che l'ESP di base già è più veloce di Arduino e ha anche più memoria. Vabbè, devi anche considerare la questione del merchandise, cioè, chi va su Arduino spesso è anche gente che vuole imparare. Cioè, già solo su ESP scriverci, diciamo, c'è un livello di complessità che una volta gli sei dentro ovviamente è facile, però pensa a un teenager, una persona che non ha alcuna idea di questa roba. Di Arduino c'è una comunità anche di diciamo, tool per insegnare, per imparare in maniera facile. Ma è un'altra cosa. Nelle scuole Raspberry superiori, dove io ho fatto... Non ci porterei un ESP. No, nelle scuole superiori dove io ho lavorato con lo Z80 negli anni 90... Adesso insegnano agli studenti a programmare su Arduino. Ok, dal punto di vista didattico è ottimo. Sì, ma anche il fatto che sia più grande, vedi tutti i pezzi, cioè è un'altra giusto. Fisicità. E secondo me è un ottimo passo per chi deve cominciare, prima fa l'Arduino, impara a capire come funziona il tutto e poi passa sull'ESP. Tra l'altro tutti l'Arduino 2009 che ho io ancora qua con i pezzi through hole, cioè non quelli SMD Surface, che tu vedi proprio i blocconi, tutti i pezzi saldati. Sì, è vero. Ma se non erro, l'Arduino 1 non è SMD, è l'Arduino 0 che è SMD. Ok, non mi Arduini davvero, non li tocco da un sacco di tempo. No, l'1 ha il chip è ancora montato sullo zoccolo. Sì, sto vedendo adesso un bel cippone proprio buttato di forza dentro, bello. Tutto il resto, sì, un po' di robe, il resto sì, praticamente è SMD, sì, no, tutto SMD. Tutto strapiccolo. Ma penso però che l'abbiano fatto per risparmiare in costi di produzione. Sì. Vabbè, ma anche molto facilmente automatizzabile a livello industriale. Sì, decisamente. Senti, Francesco, invece io sono interessato al sensore di corrente, perché io ho, come sempre, tutti i pezzi per poterlo realizzare sparsi per casa. Guarda, è un progetto che mi sono portato avanti per circa un anno e mezzo, nel senso che io... avevo visto, innanzitutto, questa cosa mi è nata la volta che è saltato il contatore perché c'era la lavastoviglie accesa, il phon acceso, e in inverno mentre mi facevo la doccia ho acceso anche il riscaldatore per il bagno. Ah, ma tutte le quindi ero sotto la doccia ed è saltata la corrente. E questa cosa è una cosa che odio perché il contatore sta in cantina. Era inverno, era buio, facevo un freddo porchetto notte, bisogna fare qualche cosa. E che ho fatto? Ho comprato un sensore, un amperometro, come si dice, a effetto Hall. Mario, tu sei un po' più fisico. Sì. È praticamente un anello che metto intorno a una delle due fasi dell'impianto, funziona anche se lo si mette intorno al neutro. E no, lui in... sì, no? No, no, Allora no? Sono stato fortunato perché ho sempre acchiappato la fase. Sì. Al volo la fase. L'importante è non metterlo dove ci sono tutti e due i fili, perché l'effetto si annulla. Lui legge quanta corrente passa in base al campo elettromagnetico che c'è intorno, dico bene? Sì. Perfetto. Sì, il campo magnetico indotto dagli elettroni che passano dentro. Perfetto. E trasforma questa cosa ai due fili del sensore in una variazione di corrente. Ho trovato questo sito, tra l'altro su Arduino CC, dove c'è il monitoring dei consumi. Ho trovato una libreria, la Emonlib, che non fa altro che prendere il segnale analogico di questo sensore e convertirlo in un valore di corrente. Purtroppo è un po' una rottura di scatole, perché ogni sensore non è tale quale all'altro. Di conseguenza, se tu compri quattro sensori diversi, la lettura cambia a parità di corrente che passa. Quindi va un attimo tarato con... Io mi sono fatto prestare una presa di quelle che ti dice quanto stai consumando. Ah, ok. Non so se hai presente. Per sì, esatto, quindi l'hai calibrato il tuo sensore, giusto, in particolare. A questo punto che ho fatto? L'ho messo su Arduino, mi sono comprato un LCD perché volevo che si vedesse bene, mi sono studiato le librerie dell'LCD, che sono veramente semplicissime, e ho fatto dei test, e riuscivo a vedere sull'Arduino quanta corrente, quindi quanti watt stavo consumando in quel momento lì. Questa cosa qua poi è andata un po' nel dimenticatoio, l'ho tirata fuori, avevo l'Arduino Yun e ho trovato questo produttore di scatole DIN, quindi quelle che si mettono nei quadri elettrici, che era fatta per l'Arduino Yun. Ne ho comprata una e mi ha detto: ma no, un campione te lo posso mandare gratis, me lo sono fatto mandare. E praticamente che ho fatto? Ho messo questa scatola dentro al mio quadro elettrico e lui legge quanto sto consumando. Con l'Arduino Yun ho bestemmiato in almeno 6-7 lingue diverse, perché la documentazione è un po' frammentaria e soprattutto è fatta male. L'Arduino Yun parla, la parte di Arduino di Atimega parla con la parte Linux via porta seriale. Ma in cinese però. No, la stessa porta seriale che serve per comunicare con il display in base alla documentazione di Arduino. Anche okay, lì ci ho sbattuto la testa 1, 2, 3, 4 volte. Praticamente o non funzionava il display o non funzionava la porta seriale. Okay. E ho capito poi come sistemare questa cosa. Poi sul post del blog che vi mando per le note dell'episodio c'è scritto come fare il collegamento con l'Arduino Yun, se no non funziona. E non ho fatto altro che prendere l'informazione della lettura, ovviamente non in tempo reale, perché io leggo la corrente per 20 volte e la lettura della corrente è rapidissima. Faccio la media di queste 20 volte e la faccio vedere sul display. Praticamente 20 volte dura circa un secondo e mezzo. Poi faccio 50 di queste visualizzazioni sul display, faccio la media e la scrivo sul database. Se no, in un giorno io avrei dovuto scrivere una quantità di record sul DB allucinante. Quindi io scrivo. Non servono, tra l'altro. No, ma poi tra l'altro io, cioè, a me serve che mi avvisi quando sto superando i 3,2 kW, perché a 3,3 salta. E poi mi serve come storico. Perché esatto, poi con... dico, per lo storico hai soluzione. Scusa. Scusa? Vai. No, no, dimmi. Cioè, per lo storico, alla fine la risoluzione temporale per lo storico serve sui minuti al massimo, sì, ma anche su poi mezz'ora, io faccio d'ora, sì, va benissimo. Il conto sulle ore, nel senso, mi sono fatto delle query dove faccio la media dei consumi per ora e assumo che quello sia il kilowattora, sì, consumato. Giusto. A questo punto lui scrive sul DB, quando io con Telegram lo interrogo, lui mi dice: guarda, adesso stai consumando così, il picco massimo è stato questo alle, il picco minimo questo alle, e poi sono riuscito a farmi tirar fuori tipo quanto ho consumato nell'ultima settimana in kilowatt sull'intera giornata e qual è il massimo da sempre, qual è il minimo da sempre e la media. Così mi sto facendo un programmino che ogni ora fa il conto di qual è il consumo diurno e mi dice guarda stai raggiungendo l'80% del consumo medio. Questa cosa mi porta a consumare sensibilmente meno, perché se l'80% l'ho raggiunto alle 3 del pomeriggio c'è qualche cosa che non va. Tutto ciò è fatto su SQLite. Ok, se mi, comunque io ci ho battuto un po' adesso sulle query per lavoro. Comunque se ti serve una mano, ti posso dare una mano per tutte queste robe delle medie, un casino assurdo. Ma io sono riuscito con praticamente faccio 4 select una dentro l'altra. Nella prima prendo l'ora, nella seconda prendo il giorno, poi faccio la somma, poi faccio la media, una roba simile. Poi te le mando. Non so se SQLite, ci sono alcune cose che si chiamano funzioni windowing, però sono supportate su database più alti. Io lo uso per Postgres e Oracle, mi sa che supportano. SQLite non penso, poi ti fanno tutta questa roba direttamente. Se tu fai una query tipo su un giorno, puoi raggruppare tutto quello che vuoi in blocchi più piccoli, applicare su ogni blocco una funzione e ti tira fuori tutta la roba in una sola tornata. Quindi è un'efficienza molto più alta. Però sono cose un pelo più complesse. Ma se, casomai poi se poi vuoi un po' ti mando la parte di query e lo guardiamo. Esatto, è anche un databasino di esempio, così posso vedere di darci certo. Sentite, io ottimo. Invece vi riporto un attimo a livello più basso, cioè quello dove sto io. Esatto, low level. Esatto. Quindi, allora, la cosa è molto interessante. Volevo dire una cosa. Intanto bisogna dire che di quei sensori ce ne sono di due tipi. Uno più semplice e uno un po' più complicato da gestire, perché... uno legge il voltaggio e l'altro legge l'amperaggio, perché ha una resistenza si chiama shunt interna. No, ecco, io ho preso quello di senza. Quello senza, quindi tu stai leggendo il voltaggio attraverso il sensore? No, aspetta, l'amperaggio. Allora. No, io leggo direttamente l'ampere. Sì, perché, quindi no, è quello di senza? No, io credo che tu legga il voltaggio. Dici? Sì, tu hai attaccato su un ADC sull'Arduino. Allora, perché? Sì, quello è voltaggio. Perché ti dico questo? Io credo che tu legga il voltaggio. No, aspetta. Cioè lui in base alla corrente che legge varia la tensione sui pin, sì. Esatto. Lui. Sì. Mentre invece c'è un altro sensore che, se non sbaglio, è quello senza la resistenza interna, che varia la corrente sui pin, insomma. Comunque è un pochino più complicato, perché per poi poterlo usare con l'Arduino ci va una resistenza che deve essere calcolata, bla bla bla, insomma un sacco di fesserie. Sì, allora tieni conto che comunque per interfacciare il sensore di corrente ho dovuto fare un giochetto con due resistenze e un condensatore. Se non mi ricordo male, immagino aspetta, perché praticamente la tensione che viene fuori da quel sensore è talmente bassa che probabilmente non si riesce a leggere. Quindi tu hai fatto un qualcosa per alzarla ad un certo livello, in modo che da quel livello in su cioè la tensione sia a un minimo questo livello, e poi da questo livello in su leggi la variazione. In pratica, guarda, vabbè. Ti mando nelle sì. Nelle note, nella chat, il link diretto all'immagine del circuito. Sì, va. Comunque, non so se la vedi. Detto questo, giusto per chiarezza, volevo capire, ma hai già pensato al fatto che quando raggiungi un certo consumo stacchi una certa utenza? Allora, lo voglio fare, ma c'è un vincolo. Il vincolo è che io debba avere sulle utenze grandi, quindi il ferro, il forno, la lavastoviglie e la lavatrice, circa occhio, un altro di questi sistemi piccolo con il sensore che legge quanta corrente passa, un relè in mezzo e il wifi. In questo modo io ho come lettura il consumo istantaneo dei singoli, Quando il totale supera i 3,2, prendo quello che consuma di più e lo stacco. Vabbè, ma non è così semplice secondo me, perché può essere, ci sono queste situazioni in cui uno, anche se il forno consuma tanto, ma stai cucinando per la cena, è più importante che sia attaccato quello. Però il vincolo qual è? Che se io non ne stacco nessuno, sì, okay, quello io sì. Devo scendere giù a riattaccare. E quindi sì, sì, giusto. Direi si può dare una priorità, nel senso la lavastoviglie la posso spegnere quando voglio. Sì. Però la lavastoviglie poi deve ricominciare il ciclo, sono tutta una serie di cose. No. Il forno se lo spegni 10 minuti non fa niente, rimane caldo. No, ma dipende da che cosa c'è dentro, sai? Perché se tu dici a Valentina, okay, che sta facendo il pan di Spagna, che deve essere a temperatura un po' più controllata, e no, guarda, stiamo consumando troppo perché c'è la lavatrice e ti spengo il forno, mi tira giù dal balcone. Vedi che automaticamente le priorità sceglie Valentina. Beh, l'algoritmo posso farlo fare. Esatto, a lei. Che le manda un telegram a lei e poi dice lei cosa spegne. Giusto. Sì, diciamo che in teoria si può anche fare, al posto che spegnere tu, mandi un messaggio di alert che dice guarda, stai consumando troppo e questi sono gli elettrodomestici che stanno consumando, muoviti e spegnene uno. Ok. Sì, sì, questa è fattibile. Io metterei una lista di priorità del tipo stacco prima la lavatrice, poi la lavastoviglie, infine il forno. Sì, solo che per fare questo io ci ho pensato, in teoria l'ESP è molto semplice da configurare perché lui è già wifi, lo shield con il relè ce l'ho già, e tra l'altro sti relè supportano tranquillamente 16 ampere, quindi non è un problema per nessun elettrodomestico normale da casa. Bisogna solo aggiungere, e non l'ho trovata piccola la pinza per leggere la corrente, perché visto che il sistema che voglio fare io non deve essere invasivo nell'impianto di casa, cioè io non voglio rompere niente. Uh-huh. Il sensore che legge la corrente deve essere nient'altro che una spina asciugo maschio, la pianto nel muro, ha una spina asciugo femmina e ha 5 centimetri cubici di spazio per il circuito. Tommy, immaginavo una roba simile. No, potresti fare una specie di piccola prolunga dove da una parte hai la femmina, dall'altra parte hai il maschio, esatto, e in mezzo sta il circuito. Sì, però vedi, cominci a avere già qualche filo di più, magari. Vabbè, dove... Se hai il forno lo puoi infilare dentro. Beh, sì, la parte. Ma del per esempio io sotto. Ho il forno che è molto vicino al muro, quindi per farlo devo smontare un pezzo di cucina per infilarmi. No, ecco. Un'altra cosa che vorrei fare con i sensori di gas è intervenire con una elettrovalvola sul gas. Certo. Piuttosto che far scattare l'allarme, che è una cosa comunque furba, chiudere il gas. Piuttosto che fare la stessa cosa con l'acqua. Tu pensa se i sensori per l'acqua costano veramente poco. Vabbè, bastano due fili, se si fa contatto è acqua. Li metti uno sotto la lavatrice e uno sotto la lavastoviglie, che essenzialmente sono quelle che rischi. Se qualcosa non va, spegni. Ma secondo me puoi farlo con una logica molto molto banale. Sì. Comunque un'altra... Dimmi, vai. Vai. Un'altra cosa che avevo pensato per la storia tipo della lavastoviglie, no? Cioè, tra i vari elettrodomestici, uno potrebbe anche fare una schedula, tipo tu la lavastoviglie, non hai bisogno che vada in parallelo con altre robe, dice guarda, la fai la notte tra mezzanotte e le 4, quindi lui va tranquillo. E grazie, però io non ho la lavastoviglie programmabile. No, lo fai con l'ESP, tu la accendi, brutalmente meccanica, la metti on e l'ESP la tiene staccata fino a una certa ora. Ah, da quell'ora in poi attacca il relè. A questo punto sì, questa cosa qua in teoria ti porterebbe a risparmiare perché la fai partire in orario fuori picco. Per esempio con la lavatrice non posso farlo perché la lavatrice, quando attacco la corrente, lei parte in pausa. Devo comunque schiacciare il bottoncino. Ma per quello a quel punto smonti il bottoncino, ci metti un ESP dentro. No, ci ho già pensato. Ho un piccolo servo, faccio un dito finto che schiaccia il bottoncino. Non fai venire a pagare un cinese che viene da fare lui. No, per la lavatrice ci ho pensato già più di una volta, perché farla partire alle 5 del mattino perché sia pronta da stendere alle 7 sarebbe molto comodo. Beh, l'unica cosa che posso immaginare è che quel rumore di centrifuga mi darebbe un po' fastidio. No, guarda, io ce l'ho in una stanza chiusa, quindi non me la provo neanche. In cucina, no, lasciamo perdere. Ok, mi sa che abbiamo sviscerato abbastanza tutto di tutta la questione automazione, domotica, server. Oh yes. Se volete, non avete altre domande o robe particolari che possiamo... Ah, non abbiamo detto una cosa, scusatemi. Questa puntata andrà in onda in versione ridotta antica, quindi adesso quando abbiamo finito qui faremo una breve carrellata di cazzilli, visto che questo mese volevamo essere compatti e smart, facciamo tutto insieme, quindi vi diamo un po' più di... un altro po' di intrattenimento dopo tutta questa parte principale, quindi scusatemi per la parentesi, se avete qualcos'altro da dire ditelo adesso o se siete soddisfatti ditelo, così possiamo passare alla parte successiva. Da parte mia vi ho raccontato tutto, ma io direi che possiamo anche passare alla prossima fase, magari faremo una puntata quando ci saranno degli altri sviluppi. Ma io okay, ora sto sviluppando tutta la parte di alerting, quindi che mi avvisa quando consumo troppa corrente, che mi avvisa quando, che caspita ne so, se metto il sensore dell'acqua che mi dica guarda che c'è un... C'è qualcosa che non va sull'acqua, oppure se nota delle discrepanze grosse di temperatura tra una stanza e l'altra, tipo ti sei dimenticato la finestra spalancata perché in camera hai 12 gradi e in tutto il resto della casa ne hai 22. Ok, vabbè, quando avremo degli update importanti potremo fare una versione 2.0 di tutto ciò e vediamo di aggiornare tutti con cosa hai cambiato, cosa poi la implementerò pure io, ce la faccio. Tra circa 2 anni, visto che l'altra era 2 anni fa. Ok, sì, potrei farci, mia figlia ne avrà 3, quindi sarà indipendente. Molto bene, sarà lei ad ascoltare la puntata e a costruirlo sul Raspberry. Esatto. E fa lei, sì esatto, lo spero, guarda. Bon, perfetto. Allora a questo punto possiamo passare direttamente ai cazzilli di questo mese. Quindi chi vuole cominciare le danze? Qualcuno che ha messo qualcosa di cui si sente particolarmente padrone? Francesco, hai qualche cosina da proporci questa volta? Allora, devo essere sincero, dunque... Aspetta, perché io... No, tu comincia. Perfetto, allora io ho diverse cose. Alcune sono cose... che piacciono a chi è di livello basso, quindi cose hardware, però so che la roba non ti piace tanto. Alcune cose software. Allora, se volete io parto con una cosa a bomba veloce, è una cosa hardware, purtroppo è su Raspberry, Giuliano, non è sull'ESP. Mannaggia. Esatto, che già metto che non ti piace perché ovviamente l'ESP già lo fa. E quindi, ecco. Ovviamente l'ESP fa tutto. Veramente ci sta questo tizio, è quello del sito del raspi.tv, che ha un sacco di guide molto interessanti, se poi ci passate un attimo andate a darci un'occhiata, che produce anche degli schermi per il Raspberry, robe così, che ha fatto un Kickstarter carino con una shield con degli ingressi 8 ingressi analogici per Raspberry Zero, che è molto compatta, e poi anche tanti altri simpatici ingressi e uscite, quindi espande un po' le porte GPIO e se vuoi le puoi produrre in parallelo su facendo lo stacking, e ha un piccolissimo, cioè un bel cippone grosso infilato e che ti permette di avere 8 porte di ADC, che di adesso così al volo non ricordo la risoluzione, sbaglio, era 16 bit, non mi ricordo, perfetto, ah no, 12 bit, 10 upgradabili a 12 se supera un certo livello di finanziamento, mm-hmm. Quindi è una cosa carina, se uno ha il Raspberry Zero, come ne ho uno io, ho anche altri ADC, però questo è bello compatto da attaccarcelo su. Sempre in tema di Kickstarter, ho detto una bella notizia in cui PayPal... da giugno in poi, se voi volete fare campagne di crowdfunding e pagate con PayPal, non potete più farlo, perché sono accorte che la quantità di imbrogli e sole che sono state fatte in questi anni è talmente alta e qui loro non vogliono più assicurare i loro soldi. Quindi se volete farlo, dovete farlo tramite carta di credito. Altra chicca che abbiamo visto, che ho usato ogni tanto, è un sito che si chiama KickTrack, con la K, che poi metteremo delle note. È un sito in cui tu metti un link di una campagna Kickstarter che stai seguendo, che ti interessa, oppure così per curiosità, e lui ti fa tutta una serie di grafici in cui vedi quanto è stato finanziato, in che giorni, da chi, e ti fa anche grafici esponenziali in cui vedi, no, in un mese arriverà tot, quindi per avere un'idea di come stanno andando le campagne. Questo ovviamente non ti protegge da gente, come abbiamo letto, che prende i soldi e ci si fa le case oppure scappa eccetera, quindi con il crowdfunding stai sempre attento. Le ultime due cose, allora vi dico, prima la più veloce perché l'ho letta di sfuggita e non mi è entusiasmato, c'è stato Google I.O. poco tempo fa. Io non ho seguito live, ho dato un'occhiata dopo a quello che è successo, però vi dico onestamente di ciccia, non, non mi ha stupefatto, quindi tra le pochissime cose che ho letto è la, questo oggetto che hanno cacciato Google, questa nuova AI che si chiama Google Assistant, che poi viene integrata nei prossimi nuovi prodotti, tra cui anche il Google Home, che sarà un hardware tipo l'Amazon Echo, diciamo, che però si mette nell'environment Google con il suo intelligenza artificiale, eccetera, però... onestamente è stato un po' una noia questo, diciamo, questo che stanno cercando di mettere nelle case di tutti un microfono per sentire tutto quello che viene detto, se la pensiamo da complottisti. Esatto, e quindi io sempre di più vi dico fatevelo in casa una cosa del genere. L'altra cosa interessante che hanno fatto è che hanno reso open il protocollo di Nest. Ah sì, quello sì, giusto. Quindi praticamente se qualcuno vuole interfacciarsi con Nest adesso può farlo con le API. Io continuo a non capire quelli che producono dispositivi, ne parlavamo anche sul gruppo di discussione sui forum di GitHub, c'è gente che fa questi dispositivi, li puoi usare solo con la loro app e basta, come... quella specie di telecomando a infrarosso che ha comprato non mi ricordo chi sul forum. Controllando live. Sì, e anche come la mia lampada Natuled, cioè tu compri una roba smart che usi solo con l'app del produttore e non c'è una maledetta API che ti permette di accendere e spegnere la lampada. Che cosa la fai a fare? Cioè fai l'API direttamente, secondo me dovrebbe essere imposto per legge adesso. Qualche cosa di smart, devi fornire le documentazioni per interfacciarti, lo userà il 3% dei tuoi clienti, ma quel 3% almeno io l'avrei fatto con la mia lampada smart, avrei detto al mio sistema Telegram accenditi rosso quando sto consumando troppo, non era difficile, le API non ci sono. Guarda, questo che dici tu, allora io posso, no, non lo accetto, però posso capire che gruppi grossi come Apple, Google, che era Philips, facciano queste robe chiuse perché loro se lo possono permettere, però era Calibro Zero l'utente, ma non so il nome, è il suo nick su GitHub, che ha comprato questo oggetto che era Orvibo L1, che non è riuscito a interfacciarlo con niente, che voleva fare robe come te, scriptare alcune cosine. A questo punto l'usabilità per un'azienda che non è straenorme diminuisce moltissimo. Tra l'altro dallo zoccolo duro di persone che sarebbero proprio quelle che tu vai a cerchi di interessare per il tuo oggetto. Questo era tra l'altro un'interfaccia tra Wi-Fi e IR, quindi tu tecnicamente lo attacchi alla tua rete locale e tramite un'applicazione loro puoi comandare tutta la roba che va in IR, quindi come telecomandi di varie cose eccetera, però se lo vuoi scriptare, quindi farlo girare sotto qualche altra cosa che lo comanda, non si può. Quindi ha perso un po' di interesse per tutti noi questa cosa. Ma no, ma persino le U di Philips puoi interfacciarle, farlo con gli FTTT, dai solo le API a loro e io con loro parlo e accendo e spengo la lampadina. Bah. Vabbè, vedremo, comunque hanno vita breve cose del genere. Sì, secondo me sì. Però sono stimolanti. Sì, quello sì. Vabbè, come altra cosa che volevo portare alla vostra attenzione è l'ultimo update che hanno fatto alla Raspbian, che sembra una cosa, l'avevo letta così in passant al volo e non mi è interessato, però da un'altra serie di altri blog che l'hanno riferito, me la sono riletta per benino, e ci sono un paio di cose interessanti, tra cui su Raspberry 3 hanno migliorato l'interfaccia grafica per collegarsi alla Bluetooth, quindi dice che adesso è fatto in maniera decente, funziona molto bene ed è molto stabile, quindi cosa di cui siamo molto contenti. Io sto meditando seriamente di prendere una schedina Raspberry 3. Il Bluetooth audio viene adesso supportato in maniera molto semplice, e una cosa molto carina che hanno fatto è integrato nel Raspbian un oggettino che si chiama SD Card Copier, che permette di fare una copia di tutta la SD che tu hai per fare un backup direttamente anche in un sistema che sta runnando. E tu prendi e lo copi da un'altra parte, ma la cosa più carina ancora, tu prendi una copia, la puoi riscrivere su una SD, la infili e quella va tranquillamente. E la cosa figa che ho letto su un blog post è che se la infili in schedine di dimensioni diverse, quindi la vuoi passare da un tuo sistema backuppato e passarlo su una schedina per un upgrade più grande, funziona benissimo. Quindi è una cosa integrata in Raspbian molto comoda, che devo dire che userò in futuro per i miei esperimenti. Poi più una serie di cose varie, hanno pagato la libreria PG per il PGPIO, robe grafiche che io uso poco, hanno pagato il kernel, alcuni tweak della parte grafica, io praticamente non ho mai acceso. E quindi queste sono cose abbastanza interessanti che solamente questa parte del backup nativo su schedine, che è sempre stato un cruccio per i Raspberry, viene fatto direttamente da loro, quindi la cosa se avete tempo. È sempre se escono aggiornamenti, non aggiornate il giorno che escono, ma 2 settimane dopo fatelo, sempre. Con stabilità, diciamo, dichiarata e provata da altre persone che ci hanno perso i capelli per metterla a posto. Da parte mia io avevo visto un articolo in italiano, molto molto strano che sia in italiano, di una persona che è riuscita a interfacciare 3-4 servizi su web e ha fatto un bot di Telegram senza scrivere una riga di codice. L'articolo è su Medium, è interessantissimo, andate a leggerlo perché si può sperimentare senza sapere niente di particolare, Python, PHP, le librerie, come funzionano le API e robe simili. Vi create il bot con il botfather e avete fatto tutto. Dovete paciocare con gli FTTT e altri due servizi web ed è molto molto carino, provateci. Bellino, anche io lo voglio provare perché qualcosa con Telegram mi sta venendo in mente, così almeno, giusto per non scrivere neanche una riga di codice, lo proverò. provalo, perché pare che ci si riesca a interfacciare con un sacco di servizi diversi. Un'altra cosa, poi Giuliano do la palla a te. È un progettino sempre per il Raspberry Zero, sempre quando uscirà sta maledetta scheda che è sempre meno disponibile. Sto uscendo, malfidati. Sono mesi che dicono che sta uscendo. E Lab PyY, praticamente sono riusciti a fare una schedina delle stesse dimensioni del Raspberry Zero, che si interfaccia con Raspberry Zero su 2 piazzole, quindi non usa il GPIO e lo lascia libero, e vi genera 3 porte USB e l'interfaccia Wi-Fi, e costa veramente poco. Aspetta che non mi ricordo più quanto diavolo costa. Ce l'ho io a mano, $11 il pledge base. Aspetta, perché il Kickstarter lo hanno chiuso. Ok. E quindi ora volevo vedere sul pre-order come la faccenda. Da 3 porte USB 2 e il Wi-Fi fa $13. Beh, che non è male. No, non è una cifra esagerata, insomma. E tra l'altro è delle stesse dimensioni del Raspberry Zero, quindi è proprio piccino. Bellino. Ok, carino, carino. Bene. Giuliano, mi sa che ne avevi tu una. Una cosina che ho visto qualche giorno fa e che richiama qualcosa di cui abbiamo già parlato, che è il retro gaming, fatto per chi viaggia, nel senso è una piccola console con un LCD a colori, la forma è quella di una PSP, e che dentro ha integrati 60 giochi di quelli retro, tipo non so il Mario del Super Nintendo o il Space Invaders, insomma qualcosa di quelli in cui io personalmente ho buttato un sacco di monetine dentro i coin op. Costa decisamente poco, perché costa $19, sempre dai nostri amici dietro l'angolo, ed è simpatica appunto perché è portatile e quindi permette di farsi un paio d'orette di gioco mentre si è in viaggio, sul treno, sull'autobus, andando al lavoro magari o tornando dal lavoro, in modo da poter scaricare un po' la tensione del lavoro. Bellina. O mentre lavori se ti annoi. Come? O mentre lavori se ti annoi, dicevo. No, non ho capito. No, mentre lavori non è bello giocare, grazie. No, conosco gente che lo fa, ma comunque no, io no. Ecco. Però. Ma tra l'altro giocare a questi giochi vecchi non sembra, ma è, più che farti passare la tensione, te la fanno venire. Cioè, voi vi siete resi conto di quanto erano difficili? Sì, cioè, ci ho provato ultimamente con RetroPie e sono, cioè, il livello che sono arrivato è mega schifo, cioè, sono proprio No, ma rispetto ai giochi attuali erano veramente di un frustrante allucinante. Sì, al giorno d'oggi premi un bottone, vai, arrivi, è finito. lì morte a ogni passo. Ma lo facevano apposta perché dovevi metterci le monetine dentro. Esatto. Poi sono, cioè, a quel periodo però anche i giochi diciamo da casa, ma anche erano della stessa difficoltà. Quelli da console erano molto difficili, sì, molto più di quelli che sono ora. Sì, no, ma è un'altra epoca. Anche perché quelli che ci sono ora hanno dei margini delle tolleranze più grandi di quelli di prima. Cioè, prima se non saltavi in quel pixel non riuscivi mica a fare il salto. Esatto. Sì, giusto, vero. Ora sono molto meno meno cattivi da questo punto di vista. Vorrei ricordare il capostipite per me tutte queste frustrazioni era Dragon Slayer. Cioè, che tu non devi fare nulla, però se non premevi in quel microsecondo esatto eri morto. Sì, cioè, sì, milioni sì. di volte dall'inizio. Però che grafica, ragazzi, eh? Dragon Slayer, bellissimo, che grafica. I sogni, cioè, era fantastico per l'epoca. Esatto. Ok, direi che abbiamo concluso degnamente con questa puntata, con tutte queste belle cose da potervi far vedere, giocare, qualcosa da comprare ovviamente, sennò... però purtroppo per pochi soldi, quindi non vi facciamo svenare questa volta, vabbè, ce li faremo. Ma meno male. Meno male, vabbè, per noi è uguale, se loro comprano... No, meno male per loro, sennò poi non ci ascoltano più perché li facciamo spendere troppi soldi. Esatto, ma è colpa loro, se uno ti fa prendere la mano e va... Sono cose belle, fallo, cioè, però con responsabilità limitata da parte nostra, diciamo. Ok, quindi a questo punto direi che se non ci sono altre, diciamo, cosine da buttare dentro, potremmo agevolmente chiudere. Beh, dopo quindi... un'ora e 40 direi che è il momento per me, giusto. Comincio a diventare pesante, che non sono più abituato, quindi tutto in una botta così e... ce la possiamo ancora fare, dai. Va bene, quindi se non, come dicevo, se non avete nessun'altra cosa, io passo all'elencare velocemente i nostri contatti, come dire, in forma stringata, perché ormai ci conoscete. Oh yes. Ok, quindi vi ricordo che siamo presenti ovunque, cercateci su Twitter, sul nostro sito, che l'unica cosa che posso ricordare è geekcookies.github.io, sulla nostra community Geek Talks, la trovate sempre da lì, su Google Plus, su Facebook ovviamente, la nostra mail su Gmail che trovate anche sul nostro sito. Come al solito ci trovate sempre su iTunes, su Sticker e anche sul Google Play, sulla parte musica e messo la parte podcast, ci trovate anche lì. E come al solito, se avete qualcosa interessante da dire, da farci sapere o anche commentare alcune delle cose di cui abbiamo parlato qui, venite sul nostro forum su GitHub chiamato Geek Talk e potete parlare con noi, proporci progetti, problemi, come hanno fatto altri utenti, che ringraziamo tutti e che partecipano attivamente alle nostre discussioni. Vi ricordiamo di usare i nostri link per comprare cose su Amazon, in cui ci arriva un po' di soldini con cui possiamo andare avanti. Quindi abbiamo fatto ultimamente con Francesco un po' di conti e devo dire che stiamo navigando abbastanza bene. Ma non devi dire che stiamo navigando bene, siamo poveracci, se no siamo non poveracci. Usano più, non abbiamo soldi, abbiamo bisogno, esatto, di rinnovare la nostra tecnologia. Inventiamoci qualche scusa per spendere. Ah, perfetto, allora ho visto una nuova console di videogame che mi serve, quindi perfetto. Quindi comprate le console su Amazon tramite i nostri link, tramite noi. Se non sapete come fare, cioè se non riuscite a entrare tramite un nostro link per poi comprare quello che volete, chiedetecelo, che noi vi diamo i link già fatti. Ok, io implementerò poi una parte extra per questa roba perché mi ha chiesto troppa gente. Comunque voglio sottolineare, stiamo navigando bene, significa che forse avremo qualche decina di euro per comprarci un programma, che stiamo parlando di che andiamo alle Bahamas con i soldi che abbiamo racimolato col podcast, quindi tutte cose che facciamo per migliorare il podcast, si tratta di cifre irrisorie, però ci abbiamo qualcosina da parte. Tutte le sigle che ascolterete, che state ascoltando, che in futuro ascolterete, sono sotto Creative Commons, scaricate da Jamendo, i crediti trovate sul nostro sito come sempre. E come ultima cosa ricordo sempre di ascoltare il nostro figlioccio, che è il podcast del nostro mitico Francesco, che fa in solitario di pillole di bit. L'ultima puntata era quella sui mouse ottici, se non ricordo male. Sì, giusto. E esatto, le prossime due saranno con Alex Racuglia come ospite e parleremo di compressione. Ottimo, quindi roba sempre da ascoltare quando siete tutte e due voi e parlare di cose interessanti, quindi roba audio ovviamente, compressione in generale. No, solo per l'audio. Compressione, faremo una puntata sulla compressione zip, quindi sui file. E una puntata sulla decompressione. No, è una puntata sulle immagini, quella sulla parte audio l'abbiamo già fatta. Ah, giusto, è vero. Quindi tendenzialmente, ottimo, allora usciranno, dunque oggi è il 4 giugno, uscirà la settimana prossima, quindi il 5 più 7... 12. Il 12 e poi l'altra dopo altri 14 giorni. Ok, quindi a metà mese avete un paio di robe nuove da ascoltare, diciamo. Ottimo, perfetto. Quindi direi con questo abbiamo veramente raschiato il fondo delle cose da dirvi questo mese. Ci dispiace di nuovo per esserci lasciati prendere la mano con un po' di pigrizia, però insomma, abbiamo avuto tutti una serie di impegni, problemi tecnici. Questa puntata era già stata fatta, poi il mio maledetto microfono, o il Mac, o il cavo USB, o il programma che registra ha cominciato a far rumore, c'era un fastidioso click di fondo che, dava, che era terribile e abbiamo buttato tutto all'aria. Confermo che ho sentito non era pubblicabile anche per le vostre orecchie, abbiamo preferito, speriamo, incrociamo le dita che voi questa roba che stiamo parlando adesso l'ascolterete, che non ci sono stati problemi, quindi okay. Se c'è stata qualche cosa lo ridico tutto cercando di ascoltarmi, cioè non ho un altro modo. Ok, perfetto, bene, allora io ringrazio il nostro buon Francesco e Giuliano per essere stati con noi in questo pomeriggio caldo e assolato anche dalle parti nostre. Grazie ragazzi. Dalle tue parti sì, qua piove e fa freddo. Sì, qua. Vabbè, anche come qui vuoi. Siamo intanto al polo. Sono in ciabatte con la birra, pure Bartu, intanto le parlo con voi. No, io qui sono al polo, qui c'è freddissimo, proprio sono con la stufa qui a fianco. Lo so, famosa stufa sarda estiva che fa fare 30 gradi fuori. Mi state prendendo assolutamente in giro perché qua viene giù il mondo. Ma dai. Sì. Oggi okay. Si è fatto 2-3 scrosci, ma tipo secchiate. Ok, vedi, il mondo è strano anche. Il ponte sapeva che registravamo. Perciò. Il ponte del 2 giugno hanno detto no, ma non preoccupatevi, il meteo dice che farà brutto fino all'1. Ha fatto brutto il 31, l'1, il 2, il 3, il 4 e se non erro farà anche brutto domani, quindi va bene così. Vabbè, era un ponte però su un fiume d'acqua. Che sì, giusto. Esatto, va bene, ok, allora... Detto ciò, io saluto tutti da Berlino, vi ringrazio per essere stati con noi e continuare a seguirci e interagire con noi. Grazie a tutti, ciao! Ciao a tutti!